sono sul canale 10. Mamma mia, come sto? E come stai? Buonasera. E niente, perché non risponde mai nessuno in questo canale. Bus. Ma è vero, Claudio, ti ho risposto. Sarà stato una mamma adesso. Cosa vuoi che risponda alla morte? Ehi, ehi, mamma mia, mi stavo facendo un garage. Ho messo le luci originali, ti ho dato il retto, dai, mi ha dato una bella spulita e l'ho rimesso su, l'ho rimesso al suo posto, dai. Stamattina me la sono provata nel salone, tutto smontato, lavate, pulite tutte le manopole, ne lo sai come faccio io. E poi io gli ho messo le lucette su originali. Adesso è originale, ti ho mandato anche la foto. No, non l'ho visto, io stavo alla farmacia adesso, sino dalle 7:30 sino alle 9:30 del testiglio, poi ho fatto un libertario, immaginati che forza avevo di guardare il telefono, non allungava, non ho guardato la verità. Ehi, ehi, come mai questi orari così balordi? Perché stavo facendo libertari più volte all'anno, capito? Prenderci conto di ciò che c'è in casa, ciò che abbiamo visto, eh. E quindi, no, vabbè, mi toccava di più oggi, siccome adesso, non essendo più autista, non mi risparmiano manco nelle domeniche, nei giorni di festa, capito? Mi tocca fare a turno, le domeniche. Già, molto meglio sicuramente, almeno stai fermo in un posto e via, invece sta andando il torrente a destra e a sinistra. Sai che il tuo impegno è quello e va bene così. E domenica già, no, io domenica mattina posso lavorare, ci sono riposo, mi tocca la croce. Però purtroppo è capitato anche a me di esserci problemi, mi sono dovuto trattenere anche di domenica pomeriggio. Vabbè, va bene, dai, a tutti i dinti. Marco deve essere a Platamona dalla sua amorosa, il tempo si sta mettendo un po' bruttino, non so se ha dato acqua domani, niente sai. Ma veramente aveva messo fretta a sera l'acqua, e invece ha provato la più, diciamo la più brutta, perché è uscito a prendere il bidone per metterci il ghiaccio a lei. E quelli grigi, quelli grandi. C'è la roba stesa, ho detto a mia moglie, inizia a ritirarti la roba, almeno quella che è fuori, quella che è dentro il fagiolo, lasciala, non ci sono problemi. Che c'è la, sono le magliette mie di lavoro, pantaloni, eccetera, ho detto portamela dentro, che mi sa che piove, mi sa che piove. Non sapevo che avesse dato acqua oggi, nel pomeriggio, va. Però sicuramente più tardi già fatto, infatti che ore sono. 6:30 alle 7 porto a Filippo io. Lo porto prima, ogni tanto è uscito presto, lo porto prima così è tranquillo, se deve correre corre, perché nell'acqua non se ne vuole andare subito, capito? Se non lo sappiamo, un giorno non fa niente il pesce, cosa fa? C'è il mondo da tutte le parti, anche la domenica, io a volte la domenica manca qualche cosa, per esempio stamattina sono andato a prendere l'acqua all'Eurospin, poi sono andato a prendere lì dai cinesi una luce di cortesia che mi si è bruciata, l'ho detto ieri, e no, forse l'ho provato mal qui, e niente, ed è pieno, la domenica è sempre pieno da tutte le parti, boh, la gente lo aspetta la domenica a farsi la spesa, cosa vuoi ti dici? Magari non ce la fai settimana, magari sta lavorando settimana e non ce la fa. No, ma poi venivano a dire, tutti quanti, ma le medie perché di ricordo, ma l'alba, che va bene, arriva uno, dice che di roba non si sono la parte, capito? Io e mio marco non si lavano così con quella macchina, capito, perché le spacca, io non le faccio lavare, io me le porto a casa, le metto al lavandino, le tolgo tutta la sua pagliuzza, se ci sono dei cani attaccati li tolgo, le pulisco bene, ma attento una per una, perché sennò le spacchi, già lo sai, la macchina le spacca. Le spacca se sono poche. Per dire le due non che le spacca, ma lo sono le no. Che fai con le sue porte non le faccio, le due non le sta la loro responsabilità, ma le fa. La macchina se la spacca se la fa il suo, io sto dicendo. Se sì, non le faccio, però sembra di scappato loro. E poi quando le lavo le fa il suo, perché se no poi si illumina, si aprono, se ne tolgo tutta l'acqua. Vabbè, non lo so, infatti è così. E vabbè, si arrangiano. Gappa gappa, ok, va bene. Vediamo se c'è qualche altro. Ce ne sono sul canale 10. Valeria, ci sei? Valeria deve essere impegnato. Gappa gappa, va bene, va bene. Natalino, ci sei all'ascolto? Natalino? Tutto tace. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma bravo Russo, mi sta così antipatica che non hai idea tu. Ma è sempre una bella roba, questo si può negare. Io vabbè, sarà una bella roba, ma mi è antipatica. Gli atteggiamenti che ha, niente in particolare. Ancora trasmissione, tutto quello che vuoi, però lei mi sta antipatica. No, no, no, guarda, mi ha acceso. Mi ha acceso. Qua in camera l'ho tolto il televisore. L'ho tolto. L'ho rimesso in camera da letto. Qua sto aspettando, devo cambiare a San Natale quello del salone. Quello grande da 32 me lo prendo a palette qua, capito? Ne a banconi già, oramai. Piace parecchio, vabbè, però che dove dica, non lo saccio, non lo saccio, vabbè, vabbè, no, ho letto un bel balcone, bello grande. Più a muovermi, io ho detto che c'era stata bella, invece oggi ho capito. Che ci fa con la calibrazione? Come ci fa la calibrazione qua? Non ricordo più, ma... C'è un tappo, però... Ma c'è il bip, se c'è il bip lo potete fare. Non è a portare il braccio, questo. Ma questo. Ah, ecco, sì, adesso ho capito. Camarà, ma non so mai. Non avevo capendo questo. Già va bene. Ok. 7, no? Si mette lì dove c'è 7. Così, 7. All'inizio è 7. Ti sento oggi molto... Su. Mi sembra più di morale, tu. Dalla voce. No, già. No, assolutamente, no. Sì, un po' di noia, mi. No. Un po' di noia a casa, la verità, da far niente, poi mi ho preparato, lei ha preparato, ho fatto la pizza, ho cuocito la pizza già al forno questa notte, sono la nessuna parte già, stamattina sono uscito, poi sono messo a dare una mano con la mia moglie a casa a pulire, niente, così, un po' di paranoia, annoiato, ma niente di che già, tranquillo, tutto a posto. Aspetta, ascoltavo un messaggio e anch'io sono così già. C'è scritto 7, no? C'è un quadratino rosso. All'inizio del quadratino o alla fine del quadratino si fa il 7? Quadratino, ricordo il quadratino, non ho capito, quello dello smith. Dove c'è scritto RF, SWR, AM, SB, eccetera. Non dove c'è scritto signal, l'altro strumento del Galaxy, no? C'è scritto 7. Dove c'è scritto 7 c'è un quadratino rosso sempre, nella linea rossa. Il 7 lo fai all'inizio del quadratino o alla fine del quadratino tu? All'inizio mi fai, ma io non ne misero mai con quello. Sono non l'ho mai usato, dico la verità. Io sempre l'ho visto all'esterno, io ce l'ho esterno, ce l'ho svitta le vasche. Ma le rose sono le vasche, quindi non ne uso mai, non l'ho mai usato, dico la verità. So che lo fa, però non l'ho mai usato. Io ho l'osmetro del vattimo della Kenwood collegato, c'è la T230. E guarda, ti posso dire, la potenza sta segnando 10 watt il baracchino e 10 watt spaccato la T230. Ok, le stazionarie, 1 rapporto a 1, poi sciuga, 1 rapporto a 1. Ed è preciso questa Kenwood. Stiamo parlando di strumentino la T230. e il 7 quindi va all'inizio, dove c'è scritto 7 del quadratino rosso, sì. È perfetto, non sai quanto è preciso. Il segnale tuo, ho commutato al 4,40, è preciso, identico al 4,40, perfetto veramente. Fabio, perché a me mi è sempre piaciuto il gas, io ne ho avuto 5, 6, non mi ricordo, che mi è sempre piaciuto, poi magari se si vende, le spese se lo ricompro, adesso è compasa, vale malissimo, infatti non lo voglio dire, non mi disturbo perché fa apposta per il gas, questo, diciamo, questo mobile l'ho fatto soprattutto per metterci in gas. Già, questo è come il tuo. Nuovo, nuovo, nuovo, e poi nuovo, non c'è un graffio. Nuovo, lucido, nuovo, nuovo, nuovo. Ho tolto le lampadine blu, le ho messo le bianche. È nuovo, nuovo. Nuovo, è veramente nuovo. E poi è... va bene, va bene. La cosa che mi meraviglia è che molti criticano l'MB+5. Vabbè che vuole modificato. Questo era di Gigi, l'ha venduto Gigi, perché mi serviva uno già connettore per questi tipi di radio, perché quelli che ho io sono diversi e non voglio sostituirli, non voglio cambiarli, capito? Ma caspita, ha una bellissima radio, funziona molto bene. È sempre stato così, grazie, chiarissimo. Mi hanno da dire storia, adesso dice, ma io l'ho provato, a me piace. Dice sì, c'è all'interno come... No, c'è una bella ricezione anche perché c'è l'altoparlante davanti, quindi non ha bisogno che un'unione esterna, bello grande, è un bel, sì, una bella radio. No, ma io ce l'ho avuto, ne ho avuto due, uno l'avevo venduto a quello di Ottieri e l'altro non mi ricordo a chi. E funzionava benissimo, capito? Questo è nuovo, eh? È nuovo, nuovo, nuovo. Io ho fatto il manopolone perché era un po' sbiadito l'altro giorno, capito? E basta, per cose non è nuovo, va bene. L'ho messo, è perché c'ho il posto, ho messo sopra il DAC, capito? Della stessa misura del DAC, se no non lo metto. Sto alternando un po' con questo, con gli altri, tutto qua. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Ora Tapignara. Canto Dromig, per carità, Canto Dromig. Ieri. No, anche se è venuto la programma, sì, io me lo ricordo. Vediamo un po' se qui c'è la memoria lunga. Ma quello bellissimo che ti ho fatto avere io. Uno l'ha venduto a me. Ma quello già, quello era impeccabile, quello era nuovo, nuovo, nuovo, quello era praticamente sempre fermo in cantina, praticamente, conservato, ed era solo pieno di polvere. Quando l'ho tutto pulito e lucidato, ti ricordi com'era? Mamma mia, quanto era bella quella razza. Anche questo. Ho aperto io a sostituire le lampadine, gli ho messo le lampadine sue dentro i suoi forettini, con i suoi aggancetti. No, no. Non è mai stata, si vede che è buona la radio. Secondo me è una delle loro dei baracchini più bello che c'è. Io non mi faccio così, l'ho visto ma non è così. Già, il numero uno al mondo è il DAC, era bravo. E vabbè, così sappiamo, molto bello il DAC, sembra un'idea di quelli che sono barboni. Ma va bene a noi che non abbiamo bisogno di PC, ma va bene, controllo, sì, un Yasmitter. Allora io l'ho misurato, lo strumento rosmetrovattimetro, perché c'è rosmetrovattimetro, poi c'è l'altro strumento che ti indica praticamente la potenza della valvola e l'assorbimento della valvola, perché c'è il tasto dove ti dà assorbimento e potenza, il modulometro e lo smitter. Allora gli strumenti sono uguali allo stesso strumento della ZG che ho io, rosmetrovattimetro, quello ad ago incrociato, uguale a quello, preciso come grandezza. E quindi andavo a chi lo vedo, sicuramente io sono guggeco, lo vedo, magari tutti i baracchini fossero così. Ciao Massimiliano, buonasera, ben accoppiato. Infatti stavo dicendo da Gianni, magari già vedi il Galaxy, altri baracchini base, quello tuo base, Massimiliano, che di là adesso, no? Per capirci, anche quello è un bello smitter, ma tutti i base hanno degli smitter grandi. E poi questi baracchini vanno gli smitter minoreti, che non si vede una cicca, capito? Oh, sarà il figlio Giovannino Piuri, non so chi è. È Spagna? Sì, ma si via, sta andando. Te l'avrei detto, sta andando alla grande. Sì, è Spagna, ma noi siamo a Sassari, di tu, capito? Ma beh, adesso sì, ti ho sentito ieri con questo baracchino, adesso ti ho riconosciuto, sì. Ciao Vittorio Volto, buonasera, ben ascoltato. Io Gianni e Massimiliano Bulldozer, vai già. Sì, a che cosa dove ce l'ha sentato un attimo? Vittorio Volpe. Oh, buonasera signor Volpe. Ciao Gianni, salutoni a tutti, dai, adesso non ricordo i nomi nativi. No, siccome ho sentito, l'ho messo in azione questo apparato, e ho detto, ma c'era uno che chiamava il 30 della Spagna, e quindi ho detto, è uno spagnolo, con giusto però, comunque contento, Claudio ha percepito il mio segnale, bravo, molto intelligente, no, a me io ammiro questa persona che riesce a capire i segnali a seconda dell'espressione vocale. A fianco. Ma perché ti ho sentito anche ieri, capito? Però magari dal segnale non riesco, ma se parli già, la tua voce è inconfondibile, Vittorio. KK. Avanti Massimiliano. Ehi, capo Massimiliano, no, io non ho un buon impianto, Sono intanto poi ci sento campato in aria, però diciamo che nelle mie circostanze già mi ascolta, noi probabilmente siamo un po' di San Tutti noi altri. È uscito di radio già. No, guarda, adesso non è vero, forse fa tanto male pulsando. Sì, sì, adesso sì, abbiamo capito che sia un po' stanchino. Sì, anche Massimiliano si può uscire di radio, ma si sta presto. Sì. Ho detto che anche tu, come me, ti alzerai presto la mattina. Sì, la mia famiglia sono le 4:30 la mattina. La mia alle 5:30. Ma anche la mia già, alle 5:30 mi alzo io, 6:20, dai. Perché esco alle 6, ma io entro alle 7, c'è un'ora, quindi esco alle 6, 6:10 faccio colazione in via Pascoli, proprio sotto casa dove ero io, da Adamo che apre alle 6, e poi vado a prendermi la macchina di servizio, tanto timbro a Sorso, perciò da lì a Sorso ci vuole 15 minuti, non c'è problema, passo da San Camillo. E tutti i vicioletti ne bisemo, non venuto da vanno, è finita l'era, andata a travagliare di nuovo. Me l'aveva detto mamma di fare un prefetto, invece non mi sono riuscito, vero Vittorio? Ehi, vabbè, ognuno il suo. No, io non mi alzo così presto, mi alzo alle 8. Vabbè, io sono in pensione, d'accordo, però anche io ho fatto i miei lavori. in quegli anni, e quindi me ne sono battagliata. E ormai, vabbè, certo, i più giovani devono un po' pedalare, però diciamo che se qualcuno si addrizza un attimino, riesce in qualche modo a sopravvivere con noi, perché alzarsi presto fa bene anche, a mio parere. Sì, alzarsi presto non fa nulla. Ma come Gianni che deve battagliare 8 ore con i clienti, Massimiliano 8 ore che hanno soldesi nata dei cavalori, io battagliare con le macchie eccetera eccetera, lui lascia perdere. E vabbè, e beh, già ti ho conosciuto quando eri attivo, mamma mia, quando eri attivo Vittorio, quindi vabbè, purtroppo il tempo passa e quindi bisogna in qualche modo anche soccombere. E quando è una certa età poi le cose cominciano a cedere, c'è un cedimento strutturale e che devi purtroppo accettare, e la vita è questa, purtroppo è così. Massimiliano, tu invece com'è la situazione? Ci alzi presto, ma mi pare che l'allenamento ne vai poco. Sì, io mi alzo presto, ma non so dove, non so dove, le matite facevano quell'odore dei poderni, per carità, no, beh, ognuno ha il suo, la sua piccola cultura, per carità, però già faceva un po' male l'odore della penna, delle matite. Io usavo l'inchiostro quando ero ragazzino, negli anni 50 si usano, non c'erano le giro ancora, e purtroppo era così. Aspetta Gianni, è rientrato poco fa, era lavoro Gianni, capito? Vabbè, vabbè, lavoro Massimiliano, ho visto 9 ore sopra una macchina operatrice, non è buccia di gioia, non è buccia di gioia, vogliono fatti e ci vuole passione anche. Io sto molto in macchina lo stesso, sali e scendi. Non so gappare picco, però anch'io non lavoro a Sassari, faccio circa 200 km di giro di lavoro al giorno, poi c'ho una 70 andare, 70 a tornare, capito? E quindi vabbè, pazienza. Arriverà anche il mio turno, Vittorio, devo dire come va. Gianni, a te Gianni si è calamaiato, riprendi tu Vittorio. Sì, io ho un cognato che fa il camionista e lo fa in continente, ma non si ferma mai, è un disastro. Qua viene ogni 20 giorni, lui e la moglie incazzata con una bestia. Già lo so come funziona quella storia lì, mi ha raccontato anche delle cose, che purtroppo è triste. Il chilometro non ne fa 200, ne fa 1000, 2000, a seconda da Milano a Roma, Napoli, Bari, insomma, dice, è sempre correndo, non è abbastanza. Però il problema è che si guadagnisce un po', perché dico la verità, anche se i titolari di queste aziende sono un po' grumiri, maledetti, però qualche volta cercano di girare, però già si lavora ma si guadagna su quel mestiere lì. A te Massimo. Ah, non fai il camionista, beh allora è meno pesante forse. Vabbè, quello è un altro tipo di lavoro, sì, in effetti la schiena già ne conosco di questi che fanno gli scavi eccetera, quindi purtroppo, però il camionista è più pesante, perché il camionista deve trasportare del materiale e poi deve gestire anche il suo mezzo che va a transitare percorsi che non sono da sottovalutare, e quindi attenzione, mai bere, per carità, lui acqua, quindi non quello è un rischio. Ma vabbè, il suo mestiere è pesante lo stesso, per carità, non metto in dubbio il tuo, però sai com'è, però rimane, diciamo, in loco. Ehi, Vittorio è andato in pensione con 35 anni di contributi, tu sei andato in pensione. La legge ancora non è cambiata, invece noi, a me ancora mancano 3 anni buoni, ma per andare in pensione con 42-43 di lavoro, capito? Che l'età non ce l'ho. L'età non ce l'ho, però arrivo al massimo e me ne vado lo stesso, c'è il bidellucci. E lo so, ma no, il tuo non è da invidiare il lavoro. Però scavatorista non è buccia di gioco, perché stare su quel mezzo per come si muove, io ce l'abbiamo, collega, noi no? Ce l'abbiamo lo scavatore, sia quello il mini che quello grande. A volte viene anche Adamo dall'officina, già lo sai. E lo vedo come si lavora, ti suggerire, dum dum dum dum dum, insomma lì a gara, mamma mia roba di colpi ti dà, per carità, no, Vittorio, io non sono un camionista lo stesso, io vado a Solso a prendere la macchina in servizio e poi seguo l'impianto di depurazione, quindi giro, parto da Solso sino a Vidalba, faccio Vidalba, alla zona di Lurrazzoni, lì, poi salgo a Montigioni, a Zaguta, scendo a Badesi, poi vado a Trinità da Gulto, Paduletta, Marinetta, Isola Rossa, Porto, esco, arrivo sino a Vignola, poi torno indietro, tutti i giorni la stessa cosa, quindi alla fine insomma diventa monotona, dai. Certo, il tuo lavoro è pesantuccio anche quello, perché questo girare, tira e molla, alla fine è pesantuccio, e poi non è solo il fatto di andare a tornare, anche c'è una responsabilità, perché tu mi pare che hai dei controlli di queste centrali, non so come è organizzata questa cosa qua, e che devi fare anche dei controlli, per cui c'è una certa responsabilità nei confronti di questa gestione, a mio parere. Sì, ma infatti grande responsabilità, molta attenzione e soprattutto devi anche rendere conto agli altri, quindi la responsabilità, so, tanto che ognuno c'ha il suo, come Massimiliano, deve stare appunto attento quando sta lavorando a non fare danno, né a lui né agli altri, quindi insomma ognuno c'ha la sua responsabilità, tutto qua. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Marco, Gianni? Qualcuno c'era, perché era proprio la porta. Boh, non me ne sono accorto. Avanti, chi vuole entrare sul canale 10? La porta è aperta. Vabbè, la seconda già. Giuseppe, in frequenza dal Guerra. Non ho capito, Vito. Dice che c'è Giuseppe in frequenza dal Guerra. Io non sento nessuno. Tu lo senti? Ecco. Sì, adesso ho aumentato. Sì, Giuseppe, buonasera. Non mi ascolta a me. Giuseppe, ti ascoltiamo, vai. Io non sento nessuno. Io non ho sentito nessuno. Giuseppe? Adesso ci sono i... Vai Giuseppe, ti ascoltiamo, vai. No, c'ho quel REM a Santiago 5, non sento niente, nulla. Ha fatto un disastro Giuseppe, un disastro, non mi arriva più, porca miseria ladra. Io l'ho assolto quella, adesso non ha fatto nessun disastro. Cosa ha detto? Non ha fatto nessun disastro, nel senso che prima lo sentivo, adesso non lo sento più, quindi per me cosa devo dire? Che è un disastro, se tu mi senti Giuseppe, io non ti sento adesso, non ti sento, te l'ho già detto ieri, non arrivi qua, non arrivi, sei in mezzo al QRM, mentre prima eri 7 liscio e 8 e mezzo quando agganciavi quel lineare. Adesso io non ti sento, c'ho QRM a Santiago 5, cosa vuoi che ti dica? Lo so Massimiliano, lo so, infatti prima arrivava bene, adesso ieri ha detto che ha cambiato l'antenna, ha messo l'antenna, però qua invece di aumentare si è abbassato, capito? E non è fattore di QRM, perché io ho QRM, ho 3-4 di QRM, lui è in mezzo, mentre prima anche con 5-6 di QRM me lo superava, capito? Quindi non so che dire, Vito, a te ti arriva bene, forse tu lo senti meglio perché sei in quella parte lì verso il costone, va? Sì, io l'ho tolto, Santiago 7, e di radio è bassa, comunque. Ma se lui ha sistemato l'antenna, come diceva, dovrebbe migliorarlo il segnale, a mio parere. È strano però, che Giuseppe, a me mi ascolti sensato, come dici? Vedi che non ti sente neanche a te, Vittorio. Tu lo senti e lui non sente. Boh. Ma ha detto che ha montato un arringo, al posto di quella Grand Prix che aveva. Boh. Io non lo so. Se l'antenna è nella stessa posizione, se ha cambiato il cavo, non lo so. Non so niente. Sta al fatto che qua, ripeto, ribadisco, prima mi arrivava a Santiago 7 con la Grand Prix liscio e quando agganciava 8 e mezzo. Adesso è in mezzo al QRM, che si è agganciato o non si è agganciato, non lo so. Io non lo sento, lo sento basso, basso, basso in mezzo al QRM, non capisco l'accidente. Poi questa radio non c'ha neanche preamplificatore d'antenna, neanche il K non c'ha preamplificatore d'antenna, quindi non posso manco sollevare, cercare di sollevare un po' il segnale per ascoltarlo, tutto qua. Lampa Zidutu. E cosa vuoi ti dica quella ha comprato? Io gli avevo detto che antenna comprare, la Energy, che è molto meglio della Ringo, capito? Quella con i radialini, con i radiali, quella che abbiamo montato a Natalino. Vero Marco, quella che abbiamo montato a Natalino è la Energy. Eia, infatti ci voleva di più l'intervento nostro, gli avremmo preso un'antenna decente, buonasera a tutti, un'antenna decente e non l'avremmo derubato, spennato, come ho detto ieri. Capito, l'ho avuta anch'io, ma è un'antenna di Chechia, sembra di avere una veicolare sul tetto, io l'ho sopportata per un anno, poi l'ho buttata via, ho messo questa. È sempre molto meglio, per quanto sia una 5 ottavi modesta, questa era come la quella che citava Pomponi, come si chiamava? Prima della Energy esisteva là? Mannaggia, non mi viene il nome, sempre così, uguale, uguale di forma, però era della CTE, della Intec mi pare. Sta parlando Giuseppe. Sì, ne avevamo proposto infatti di comprare quella, però lui ha dato mandato al nipote, il nipote gli ha comprato questa Ringo, che è inferiore alla Energy, capito? Inferiore alla Energy, non di poco, di molto. Che vedi Natalino, dove abbiamo messo l'antenna, tutto tubo e antenna praticamente è un metro dal tetto, però si fa sentire da tutte le parti se usa la potenza che deve usare. Guarda Marco, Marco ce l'ha uguale, arriva benissimo a tutte le parti. Lì io ti posso dire che con la Energy lui qua al minimo mio mi arrivava a Santiago Nove. Quell'antenna vabbè. Non metto lingua perché è stato fatto un lavoro nuovo, non l'ho fatto io, quindi non so come sia stato fatto. Se l'avrei fatto io avrei detto il lavoro è fatto a regola d'arte, però io non so niente. Non so se hanno messo il cavo nuovo, perché quel cavo era vecchissimo e è mangiato dal sole. Capite? Mangiato dal sole, il cavo è molto importante, lo sapete. Non è che si può montare un'antenna nuova e lasciare il cavo vecchio. E come ti buoniti rivolti senza lacci, la mate si goccia. Vai Vittorio, io non lo sento, Vittorio se sta parlando, se lo stiamo sovramodulando, io non lo sento. Non so cosa dirti, guarda, ti faccio una registrazione, non lo sento, è in mezzo al QRM. Non riesco a capire se sta parlando, quello che dice se è lui. No, adesso non sta parlando. No, io lo stavo sentendo poco fa, sovramodulato a Massimiliano. No, saluto Marco che è entrato. Ma niente, molte volte, vedete, il discorso delle antenne, a mio parere, credo che la scelta le trova, perché io ho avuto delle antenne piccole, antenne grandi, eccetera, però l'antenna quando è piazzata bene e non hai quel discorso, senso che è il sole, cioè quello che è stazionaria, probabilmente questo è il problema, probabilmente lui ha una messa bene e tutto quanto è ha una questione di accordatura, perché non è possibile, perché io ad esempio mi è arrivato a Santiago 7, addirittura lo sentivo benissimo, ma arrivare a me, arrivare a te, tu che sei ancora più in alto, credo che sia più, non lo so, più favorevole dovresti essere. È strano però che però non abbia risposto a me a quel segnale. Mi sembra strano, io sento lui e lui non sente me, rimango un po' perplesso, anch'io, la verità. Sì, perché anche la ricezione è molto scarsa, non... a me sicuramente mi sente anche bene, però io non sento a lui. Molti, per esempio Marco lo sente, e a volte lui non sente a Marco, Massimiliano lo sente, lui non sente a Massimiliano. Cioè, ci sono tante cose che non riesco a capire, non lo so, vabbè. Comunque, che vuoi che ti dica? Avanti Marco, non sei uscito? No, no, niente, perché ieri abbiamo detto domani usciamo, farà bella giornata, invece no, controllate le previsioni, ieri notte davano quantomeno cielo coperto, adesso siamo rimasti a casa, mi stavo guardando la TV, stavo guardando un film, poi ne è iniziato un altro, ma ho provato a venire qua e stavate parlando. Purtroppo il danno è fatto, adesso c'ha quell'antenna lì. Io con 4 watt e la Ringolem, si chiama Ringolem, che sarebbe la Ringo della Lem, non arrivavo da Sandro, non mi sentiva Polo Torres. Con questa sì, ovviamente. Asco, fate vobis, se uno non segue i consigli non si può fare niente. Pazienza. La Ringo è un quarto d'onda, sì, giusto? No, mezz'onda è. Ci picchia. E la tua invece, 5 ottavi? Eia, sì, quella dell'eco andava bene, molto bene. La Ringo dell'eco antenna era la signora antenna, ma quella è fatta con le chiappe, è costruita con le chiappe. Sì, vieni avanti Giuseppe. 7 sta arrivando, amico. Lo senti? Non esiste la Ringo 5 ottavi, boh. Claudio, senti, mica sta arrivando 7 da me. Beh, la Ringo 5 ottavi, così che hai detto? No, ma ha detto 5 ottavi. Ah, cortocircuitata voleva dire, non 5 ottavi. Vabbè, comunque è grave che non lo senti, qua sta arrivando 7 oggi, non so se sia liscio, non puoi non ascoltarlo. E gli è molto corrente comunque. No, qua no, qua è 3, 4. Io ho 5 di QRM e lui arriva a 5. E anch'io ho 4 di QRM, però arriva a 7 di segnale. Giuseppe, mi ascolti? Nada. Giuseppe, mi ascolti? A questo punto non è l'antenna che non sente, ascolta. Ma il telefono perché non lo tieni vicino a te, Marco? Perché qua non prende, il wifi, va, non prende la connessione non prende qua. Lo devo tenere nell'altra stanza, vado a controllare. E ti ho mandato una foto. E adesso la guardo, dai riprendete. Sì, comunque... Sant'Agostino è un punto un po' altino, rispetto alla parte bassa vicino al mare, sì, è altino, e quindi mi sembra strano, caspita, ma guarda che mi sembra proprio strano, ma io a me mi arriva bene, in mezzo a correre, però lo sento bene, un Sant'Agostino, la radio è bassissima, ma appunto hai ragione tu, se solleva l'antenna di un paio di metri, credo che risolva il problema. Sì, anche perché la Ringo, diciamo che con peso come ha, è leggerissima, che di per sé sta variando, quindi devo vedere come è stata mutata, quanto distanza l'ha detto, cioè ci sono delle fatture, però io riprendo la chiamata mia voce. Chiappa, va bene. Sì, ma fa, no, ma come posizione Vittorio, io ci sono stato a casa sua in ottima posizione. Se lì avesse avuto il posto per poter montare la Mantova, il posto c'è, ma se avesse montato la Mantova 1, la Mantova 5, sarebbe arrivato qua a casa più di 9, perché Valerio a me mi arriva 9-10. Tutti dal Ghero a me, il più che il meno che mi arriva sono 9, 9, 9, 5, capito? E lui con una Grand Plain di quelle, non mini, Grand Plain di quelle grandi, mi arrivava a 7, 8, siccome c'è anche un linearetto, a volte arrivava anche 8 e mezzo, 9. Adesso non lo sento proprio, è calato di una cosa allucinante, in mezzo al QRM, capito? In mezzo al QRM. Infatti la radio è bassa, la verità. Però sono convinto che c'è qualche problema di impianto proprio, a mio parere. Perché non è possibile anche con un'antenna CPTO, perché una plane o una shifter, cioè l'antenna un po' esce, poi lì non è un punto basso. Mi sembra molto strano perché quelle colline che c'ha circostanti riesce a superarle. Avete sentito da Ughiero, ragazzi, che addirittura 9:20 da me, una cosa pazzesca, e senza dare lineare che si fa. Mi sembra molto strano che anche se uno ha un'antenna e si pittura, si dice, ma se non è accordata bene, non c'è qualcosa proprio nell'impiantazione, se si può dire, adesso mi sono una casata, c'è qualcosa che non va, è montata male, qualche problema di proprio di, come dire, di proprio di costruzione, c'è qualche problema di costruzione in generale. Sì, scusate, stavo aprendo la porta. No, ma sono d'accordo con te, Vittorio. Vorrà sicuramente che sia un problema nell'impianto, non lo so. Sì, è un problema di impianto. I cavi è messo male, qualche pelle non sono messo bene, soldato male, non lo so, qualche cosa c'è, perché il segnale era di secco, però attenzione, prima ha fatto una chiamata ed era basso, era Santiago 4, poi dice adesso mi sentite e quindi è passato a 7, evidentemente ha anche a sottolineare, però evidentemente anche tu puoi puntare contro voi, se l'antenna non è ben messa è il problema. Sì, è così. Marco, riprendi. Eccomi, un attimino, lo so, pazzo! È una mania, ma sembra che il baracchino attiri le mosche, sono morbosamente attirate da non so perché. Ecco qua, quindi non so cosa stavate dicendo, ero in quell'altra camera, dai, eccomi qua. Chi altro c'è? A verità c'era anche Gianni a prima intratto, pure è sparito, forse si è addormentato, non lo so. Comunque c'è Vittorio e Massimiliano, un attimino si dovrebbe essere assentato, non lo so, Valerio l'ho chiamato ma non mi ha risposto, non lo so. Beh, riprendi tu Marco e fai girare, intanto io mi vesto, che così dopo porto il cane, già sono qua, mi potete rilanciare, sono qua, capo. Oh Valerio, anche tu ci sei, va bene, dai, un secondo che inizio a prepararmi, io già sono qua. Marco, riprendi e fai girare. Deia. E io sono allo stato brado, sono uscito solo a buttare la mondezza, la differenziata, ho buttato sabbia dei gatti, voi solito con un po' di cartone, un po' di bottiglie di plastica, un po' di bottiglie di vetro, questa è la mia uscita di oggi, e vabbè, tanto il tempo non era bello, dai, avremmo fatto meglio approfittarne ieri di andare a Platamona, ma noi già lo sai che siamo in ferie, sempre in ferie, quindi possiamo andare qualsiasi giorno della settimana, non dobbiamo aspettare sabato e domenica. Bene, Volpe viene avanti, ma Vittorio, sì, Vittorio viene avanti. Ehi Marco, sì, hai parlato di mosche, beh, guarda che dai cinesi vendono una racchetta che sembra una racchetta di ping pong, un po' più grande, e le mosche le distrugge in un attimo, come la fuggi, si avvicina, la visite. Sì, ce l'avevo, però preferisco lo scacciamosche, un bel colpo, sta, e la fai secca. Poi sai cos'è, qua c'è la sabbietta dei gatti, noi apriamo molto le finestre, oppure c'è il cibo per gatti, no, qua nei piatti, e quindi attira un po', capito, attira un po'. Purtroppo a noi piace molto arieggiare, lasciare tutto aperto, perciò entrano. Adesso appena arriva il freddo cominceranno a sparire, per fortuna, questi insetti. Ma, ok, Massimiliano, riprendi. Noghè, doppio room, ci sei all'ascolto. Natalino, ci sei. Non sei riuscito con questo brutto tempo. Ho ripreso, ragazzi, io scusate, ma mi devo allontanare. Se in caso ci sentiamo momentaneamente, mi allontano. Vi saluto cordialmente. Ciao Marco, Claudio, Vittorio, che ci fosse l'ascolto. Sei tu e scudito, sei un valido. Buona santa a tutti. Ciao, ciao. Ciao, Massimiliano. ci vediamo, ci sentiamo, dai. Anch'io sto andando a portare il cane. Ciao a tutti, a dopo, Marco. Ciao Masce, ciao Claudio. Ha dormito, dici? E allora? Sì, ho chiuso. Ma come faccio? Ma è entrata sotto io, chiuso perché stava da mezzo e mi ha passato il giorno. Me l'ho immaginata. Vabbè, io vi lascio una mezz'oretta, dai, un quarto d'ora, 20 minuti. Se ci siete, a dopo, che vado a portare il cane, ok? Ciao Mascevini, a dopo, ciao a tutti. Seia, buona passeggiata. Tanto ci mettete 5 minuti e boh. Seia già, purtroppo, dai. Oggi casalingui. Sono in tenuta casalingua. E come va, come va? Ehi, dai, il tempo non era un granché, abbiamo deciso di stare a casa. Ci ho guardato un film. Poi c'era un film di nuovo, Alexander, che avevano dato l'altra sera, mi stavo guardando un pezzo. E la TV è un'altra alternativa a me, al baracchino. Anzi, meno male che c'ho il baracchino, perché mi permette anche di scambiare due parole, se no con cui parlo tutto il giorno. E purtroppo a me le chat non mi piacciono tanto, la verità. Era un po' più carino Zello, perché puoi parlare, premi il tasto e parli, solo che anche lì, se non sei fisso su uno di quelle ruote, di quei canali, non ti conosce nessuno, sai, ti tempestano le domande, chi sei, cosa fai, da dove vieni, dove vai, Poi se vuoi almeno vi conosco già, è una cosa più, è migliore, dai. Vabbè. Vabbè, ma per persone che lo conosce non fa discutere, chiede, ancora, e questo, quello che invece quando ti conosci già non è sempre quello lì. Vabbè, qualcosa si trova sempre a dire, più o meno, dai, ci sono certi giorni, sì, che non so che argomento instaurare. Poi va bene, domani piglio lo stipendio, mamma, quindi mi restituisce 50 euro. Se volete andare in pizzeria, fatelo finché ho i soldi, ricordatevi. Non dureranno molto, Cosa ti devi comprare? Beh, no, in particolare niente, mi servivano al limite degli spinotti vari, da PL a SMA femmina, PL maschio e SMA femmina, un po' spinotti inusuali, che non trovi tutti i giorni, perché tornano sempre utili, soprattutto con certi apparati, no? Capisci a me? Poi ce ne so, varie eventuali, dai. Ricordati, c'è sempre qualcosa da comprare su internet. Marco, ma da dove moduli tu? Abbi pazienza. Valerio, io modulo zona Antonio Scarpa. Sai dove è Antonio Scarpa, no? No, negativo. Diciamo zona Cinema Ariston. Te lo ricordi il Cinema Ariston? Caspita, sembrava che stia parlando di... Non sono di Cagliari io. Io no, perché è chiuso da vari anni e... È un peccato. Aveva film belli anche, purtroppo è andato in rovina anche quello. Tutto male sta andando a Sassari. L'Ariston ha chiuso, il Quattro Colonne ha chiuso. Il Verdi, fa più che altro stagione teatrale. Il Moderno lo stanno rifacendo, quindi un po' macello, Il cinema l'ha chiuso tutti perché ormai non c'è più entusiasmo. Il cinema c'è in casa. Purtroppo anche la pirateria fa molto. Uno non si candela al cinema, se lo scarica, perché c'è gente che appena esce il cinema nelle sale, soprattutto Napoli, quella zona lì, registrano il film dallo schermo e lo mettono su internet, quindi tu il film lo guardi a casa gratis senza andare al cinema. Certo, la qualità non è quella del cinema, assolutamente, non è neanche paragonabile, poi costa un po' il cinema, insomma. Non costa poco, dai, e vale per un solo, come si dice, per un solo spettacolo, proprio specificato. Se tu vuoi le 5:30 vale per lo spettacolo, se tu ti trattieni in teoria per rivedertelo un'altra volta e ti sorprendi, se ti beccano devi pagare di nuovo il biglietto, per immagini il colmo è, invece attirare la gente e la fanno scappare. E allora era così, adesso purtroppo è cambiato tutto, purtroppo così, però oggi si può scaricare il film anche in anteprima, bisogna vedere che cosa uno ha a casa come computer, puoi scaricare il film in prima visione, anteprima lo puoi scaricare pagando una cazzata, non andando al cinema, che magari andando al cinema paga di più, lo scarico dal computer e il film te lo guarda, poi magari una volta che lo guardi ce lo butti, perché lo cancelli in quanto l'hai già visto. Sì, infatti, alla fine, a meno che non sia un filmone proprio da rivederlo più e più volte, non c'è il tanto. Guarda, noi siamo andati al cinema da poco, diciamo qualche anno fa, con una persona a vedere questo film che sembrava chissà che cosa, era un pasticcio, proprio soldi buttati, era meglio spenderseli in pizze. Riprendi Gianni. Adesso fanno i multisala, non devono fare anche a portotto che non l'hanno mai fatto. Sì, il moderno sta diventando multisala. Adesso faranno pagare ancora i piumi per ammortizzare il costo dei lavori. A consi se, momì. Chissà che quello è l'unico che rimane a Sassarex, non c'è più. Quello colore non c'è più. Che cavolo c'è? Anche il cinema Astra non c'è più, una volta era bello, eh? si andava con i militari, ex compagni di scuola. I preti l'hanno chiuso. Andavamo nel film in porta. Eia, il cinema Astra era strano, perché normalmente dava film porno, poi alla fine dell'anno dava film per bambini tipo Biancaneve e quelle cose lì. Bello se sbagliano bobina. Non era per bambini, no. C'era quella di quelli posti. Anche quello, vabbè, però me lo ricordo che mandava anche film per bambini, tipo a Natale, a Capodanno, roba del genere. Ma era raro, dai. Il cinema era sempre tutto, va, per uomini soli, diciamo. Io avevo visto Saturnati Fibra. Non ho capito cosa hai detto. Sato non si capisce, no? La foto di sabato sera, ragazzi, mi si doccio di comprendoni, amico. Oh Marco. Me invece l'intelligente, bravo Antonio, ciao, Eia. Ma tu l'hai detto in italiano o in che lingua? Io sassaresu. Io ho detto Saturday Night Fever, come si dice? Ah, me l'hai detto in inglese, infatti ho detto ma non capisco io, mi Natalino, lo vedi che c'è Natalino, è sempre all'ascolto, è sempre in agguato. Veramente ho acceso adesso perché mi stavo guardando il vescovo nuovo che è entrato, gallurese. Non avrei fatto altro io me a vedermi il vescovo, via eia. Ma non sai che all'inaugurazione della chiesa che c'era un pastore, c'era il vescovo ancora vitto, quello un signor Affitto. A me o Natalino? In generale lo si dice, praticamente c'era tutti i papusi, i briti, Eia, no, io sono digiuno da queste cose di chiesa. Ma io già vedo che la vita non cambia assolutamente a stare presso a questi o... Cioè non mi dicono niente, non... Vabbè, la fede o ce l'hai o non ce l'hai, quello è il discorso già. Ah sì, come così? Ah, io non sono tutto accostato in chiesa, però sono sempre cristiano. Vabbè, ma allora sei cristiano quanto lo sono io non vado in chiesa. mi sembra una perdita di tempo. Allora io sono cristiano quanto te già, sono battezzato. No, non è così, nel senso che io ho la chiesa, ma prego di mattina, quindi io con la tua voce ce l'ho sempre. Eia. Vabbè, sì, io di solito la pregherina la faccio per nonno quando andiamo a San Gavino, no? Ma prego solo se necessario, mi quando... se no, no, proprio no. Vabbè, è difficile da spiegare a parole, un po' così. E Natalino invece è religioso, sì, se non ti sussami, la signora ti sussa. La signora è un'autorità addirittura nella chiesa, hai capito, bello bene, o ti faccio scomunicare. Addirittura c'è gente che si è sbattezzata. Una cosa anche stupida che non ha senso, perché non è che vieni sbattezzato, semplicemente si sono fatti cancellare dai registri, però resti battezzato, cioè non serve a niente quella cosa lì che hanno fatto. No, quello lo devono fare se vogliono cambiare religione. No, no, quello l'hanno fatto prepuntiglio, Natalì, prepuntiglio, che poi non serve a niente, perché uno... battezzato e resta battezzato, non c'entra che tolgono il nome da un registro. Chi si sbattezza vuol dire che vuol passare dalla religione cristiana all'altra, e cioè quale? Il testimone di Geova. Mamma mia, peggio! Peggio dei cattolici, quelli sono molto peggio. No, diciamo, non le considero nemmeno ordini religiosi, sono sette, come... boh, già, come la pensi tu? La via Brugiade, ciao Natale. Ciao Vittorio. Sì, a te. Sono previsto di particolare. Non fanno, c'è un ufficio per dire la via del... Per esempio se tua madre va via, no, tu sei il testimone di Geova, se tua madre va via dal gruppo, dice che la devi ripudiare, non puoi più avere contatti con lei, una cosa brutta proprio, l'ho visto alle Iene, sono troppo isolazionisti loro, capito? Infatti quando bussano qua, no, non mi interessa, oh, abbiamo un libretto, non mi interessa. E chiudo, perché se poco poco scambi due parole, quelli tornano la seconda e la terza volta, è successo già. Quindi da un po' si chiude la porta in faccia, mi dispiace per loro. Marco, tu hai ragione, però se tu quando si presentano nel cancello, vabbè io ho un cancello di casa e tu hai un portone probabilmente, o non lo so, quando si presentano tutti presenti in una certa maniera, come dico io, stai tranquillo che lì non ci passeranno mai più né loro né i subalterni. Eppure qua ogni tanto passano non gli stessi ma altri. Poi un'altra cosa, quando io ho tentato di ragionare con loro, soprattutto gli anziani, no? Loro non fanno altro che citare ottusamente i versi della... alcuni versi della Bibbia. Ho detto sì, ma ho detto lei provi a ragionare su una cosa, non citi ottusamente i versi della Bibbia, da lì non escono, eh. E per questo il versetto dice che, ho detto sì, ma ci ragioni di testa sua, non stia a citare per niente, sono mi, avanti voce il suono. Hai ragione di quello che stai dicendo, però purtroppo quando si si presentano da me, che non sono già almeno una decina d'anni che non ci faccio da più, dopo aver fatto un cassettone ad alcuni, me lo sono andato a cancello alle 2:30 e io avevo dei problemi qui a casa, problemi nel senso che qualcuno fa un lavoro che non deve essere svegliato perché fa dei turni in una certa località e quindi lavora la notte eccetera, quindi non dovevo essere svegliato, questi suonano il campanello e mi sveglio alle 2:30, tu mi suona il campanello, bene, io esco, va bene, e lei, allora io ti sto dicendo del tu, non del lei, no, piccolino, gli ho detto piccoli, ascolta, fa una cosa, tu in questa via non ci devi mai più passare, se no il tuo cervello lo troverai a Platamona da qui, hai capito adesso cosa ti ho detto? E lui non ci è più passato, ma non solo lui, evidentemente ha fatto passo parola e non ci è passato più mai più nessuno, è già 15 anni che non ci passano in questa zona. A te. Sono rientrato, Mi, Claudio è testimone di Genova, mi. Ehi, Gandu. Testimone di Genova? No, di Sassari sono io testimone. Ehi, purtroppo sono invadenti, poi non si qualificano subito. Con l'aprico, chi siete? Stanno passando questo libro, ho detto chi siete. E se no dico, siete testimoni di Genova? No, allora, boom, arrivederci. Non mi interessa più perché non... Te l'ho detto, non sanno ragionare come le... Loro sempre citano questi versetti, ma da lì non se ne esce. Non se ne esce. E beh, Claudio, la pipì l'hai fatta col cane. Marco ti risponde, sì. Una volta sono andati alla Maddalena da mia zia, dalla cugina di Babbo. Per poco se ne vanno cattolici. Li ha convinti. Cazzo, giù mari quasi con bottini. L'ha fatti a pezzi. La prossima volta che vengo dico, no guardi, io sono satanista, non mi interessa. Se gli dici che sei ateo, allora l'esistenza diventa triplica. Invece i mormoni sono molto più discreti, i mormoni. Guarda, tanti ma tanti anni fa eravamo andati a una loro... Avevamo due amici che erano mormoni, siamo andati a una loro riunione, diciamo, ma ci siamo sganciati dalle risate. Sì, ogni tanto si pregava, però facevano scenette per ridere, come diole, poi hanno giocato, avevano fatto dei giochi tipo caccia al tesoro, tante altre cose, ci siamo sganciati, erano divertentissimi. I mormoni, invece i testimoni di Geova sono proprio inquadrati e pallosi, non c'è niente da fare. Vai Claudio. Veramente? Claudio è distratto, ormai è troppo distratto in questo periodo. Sto guardando che c'è Milan e Roma, no? E mi viene da ridere perché il Milan ha speso una barca di soldi, non so cosa tutto ha fatto, ed è già la seconda volta che perde in casa, sta perdendo 2-0 in casa con la Roma. E hanno preso il miglior difensore al mondo secondo loro, che la Juve gli ha detto vuoi andare al Milan? Vai subito, che ci incassiamo 40 milioni di euro a Bonucci, a farfalle, un difensore a farfalle, capito? A farfalle, ma cari dai, per quello mi sono distratto, capito? Invece la Juve stava vincendo, vero? Nelle ultime partite, a sbaglio. La Juve ha fatto 6 su 6 e fa 7 su 7 perché vince anche a Bergamo, non ce n'è problemi. Ok, ma lui era convinto di andare al Milan e diventare chissà che cosa. È già la seconda volta che il Milan perde in casa per colpa sua perché ha farfalle, è un difensore a farfalle. A lui è piaciuto andare al Milan perché gli hanno messo la fascia da capitano, capito? Mentre invece con la Juventus non lo cagava nessuno, scusate il termine. E qualche volta è rimasto anche in panchina. e per colpa sua abbiamo perso la Champion. Capita che ha fatto un casino negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo sull'1-1 con Real Madrid. Sono entrati in campo al secondo tempo e non c'era più squadra, che si sono tutti afferrati negli spogliatoi, perché davano la colpa a lui che era farfalla in difesa, capito? Soprattutto il suo carissimo amico Chiellini gli ha detto: cerca di svegliarti perché non stai facendo assolutamente niente, stai dormendo. E si è di Dybala ha detto: sì, ha ragione Chiellini, lui si è girato e ha dato una schiaffa a Dybala negli spogliatoi, capito? È successo un casino nero, ecco perché la Juve ha perso la Champions, ma qui Pasoia infatti l'hanno, era esonerato dalla squadra. E lui ha detto: me ne voglio andare da qua, me ne voglio andare. E dice: sì, vuoi andare all'estero? No, io all'estero non ci vado, voglio andare al Milan. Vuoi andare al Milan? Perfetto, vai al Milan, che ci incassiamo 40 milioni di euro che era richiesto dal Milan. Lui no, ci hanno incassato 40 milioni di euro e te ne hanno mandato, capito? E difende la figura di Lumacu con Milan, la figura di Lumacu, perché Milan c'è uno squadrone, solo che per colpa sua ha perso già due partite in casa, perché è un difensore che non comprende un accidente. Chi c'è rimasto qua? C'è Gianni, Natalino, Vittorio e Valerio. Ah, anche Valerione c'è. Io sono le 8:15, ancora un pochino, poi vi lascio perché alle 8:30 c'è la partita, c'è anche gente, devo mettere le pizze in forno. Va bene così. Allora il cambio per ciao Natali, buonasera, ben sentito, ti ho sentito, Vittorio non l'ho sentito, poi vai per Valerio. Vittorio, vai. Ciao Cla, buonasera, ben sentito, vai Marco, vai. Gianni, vai. Ehi, che è una cavalla della stagione, sono stanco, sono portato un veloce, sono portato, che ore si sono fatte? Le 8:15. Io sono sotto le coperte, lo sai, sono al calduccio e ascolto la cucina. Sì, ma il ragazzo ha ragione, da Gio Giamato ti sei dormito. Esatto, cosa vuoi fare? La stanchezza è forte. E stava a giocare lo 2:30, tutti i conti. Io stai facendo già? No, oggi è capitato perché ho fatto la domenica e finito di lavorare e poi abbiamo fatto l'inventario, quindi abbiamo fatto tutta la tirata. Solitamente faccio dalle 8 alle 3. Caspita, 9 ore di continuo sono tante, ma almeno ce l'avete la pausa a pranzo. Ma guarda, mangiato proprio veloce veloce, poi avevo la mortadella e via. Proprio, vabbè, bene, mi ero distratto un attimo prima, Natali, quindi no, stavo pensando all'orario, vabbè, alle 8 c'è il TG, vorrei vederlo se possibile, ma se non lo vedo non succede niente, non succede niente. Tanto sono sempre le stesse cose, anche se lui va bene, va bene. Vedo casino, vedo casino. Mi ha fatto la bocca, mancava la bocca. Perché oramai non si sa più da che parte ci dobbiamo girare, capito? Chi dove bombarda, chi d'altro che lavo cotta, chi dove lavo cruda, e a pigliarla in goma, le vostre mani siamo noi. Quello è poco ma sicuro, siamo sempre noi. Allucinante Natale, hai pienamente ragione, veramente allucinante. Adesso anche la borsa avrà dei crudi, se succede qualcosa. Ma io credo che deve stare. C'è chi? Dico, chi gioca in borsa? Perché con queste tese di qua ci sono dei cali, capito? Leia, cali improvvisi anche. È sempre un rischio giocare in borsa. Mannaggia. Mannaia. poi qualsiasi cosa succeda, ci sono sempre ripercussioni sul mercato, qualsiasi cosa sia. Che ne so, vabbè, quello è stato palese. Quando è uscita la Gran Bretagna dall'Europa, lo stesso, non ho capito perché sono usciti. Gli hanno lasciato anche troppe agevolazioni, hanno permesso anche di tenere la moneta lì nel Regno Unito, dai, insomma, in Gran Bretagna, e non erano contenti nemmeno di quello. E beh, cosa hanno fatto? Nuda. Nuda l'hanno fatto, a chi noi si tirandemo la faccia in culo di Simone, in Europa si fa, c'è marcia. Vabbè, comunque pagare la roba in euro comprando in Europa è meglio. Se avessimo pagato in lira, a parte che c'era la dogana in tutta Europa, i prezzi sono abbastanza passabili, dai. Ma cosa, che la si paga in 100 volte di più la cosa? Ci ha messo a culo a terra, non lo puoi capire, né tu né molta gente, se mi devi mandarli a fanculo. Prova a comprare lire dalla Gran Bretagna, che la lira rispetto alla moneta inglese non vale niente, non valeva niente. Ma già lo so, ma ti la soffrendi pagare in euro, ti la soffrendi pagare, e quindi la roba la paghi qua, meglio la morte. L'euro a te quanto ti danno di stipendio? Di crediti lo gani assai, più di 1.000 euro non pigli, mi. Secondo che a travaglio fai, più di 1.000 euro non pigliarti, non parli ne manca 1.000 euro. Quindi la roba ti costa, e come si ti costa? Vabbè, comunque la roba, se ti interessa la prendimi, che costi o che non costi. A me fa molto comodo l'euro, compro dalla Germania, dall'Olanda, dall'Inghilterra, dalla Lituania, avevo comprato dalla Spagna, dalla Francia pure, dalla Francia. Se avessi pagato in lire avrei dovuto pagare molto di più, perché la lira, insomma, rispetto alle altre monete vale poco, e l'Italia è un paesello così, un paesello, è diventato proprio un paesello di chi a me. Vai Vittorio. Guarda che se noi ce ne andiamo e torna la lira, l'Italia schizza, ci sarà lavoro per tutti, ma schizza subito però. Roba detta da economisti, no da pirla qualunque. Come questo canale di Guacuomani, non lo so, mi viene questo coso alla testa, ma di pace, questo è un canale di Guacuomani. E vai tu e mangiati la lumache da solo, già ti faccio bello quando ti trovo, te ne faccio quel pizzetto brutto a schiaffi, solo perché non mi hai lasciato di quelle lumache. Sai cosa erano? Una bontà. Ciao a tutti, avanti, dai, sono appena rientrato. Ciao Rogarie. Ciao Claudio, ciao Gianni, Giannini, avanti, ciao anche Vittorio, ciao Vittorio, avanti Gianni. Ehi, arriva. Com'è, non sei uscito a farsi la luce? No, è in campagna già. Poi verso le 5:30 siamo andati via, siamo andati a casa, ho cenato, ho fatto la doccia, ho cenato, mi sono vestito e mi sono andato a accompagnare a casa. Visto Luca, l'hai fatto scappare, colpa tua. Ah, Vittorio non c'è più però. Ma ha annunciato che chiudeva o no? Ma come lo ricordo? Non lo so, io sono andato a portare il cane, sono tornato e non l'ho preciso a Vittorio, sono a Natalino, a te, a Gianni, a Cuomane. Capito? Ma non so se c'è ancora Valerio. Valerio! Oh Valeri, dacci notizie di Giuseppe. Non Sarebbe Iotta o è roba di fuori, ma con tante antenne italiane buone, perché prendere proprio quella? Boh, adesso la vediamo, manda. Ve l'ho mandata. Ma e come fa allora con l'antenna nuova a non arrivarmi più a me? Allora hanno cambiato posizione, allora c'è il cavo incorto, il cavo l'hanno messo nuovo. Si fa a mettere un'antenna nuova a non cambiare il cavo, si cambia a giorni, quanti volte in mano le bigliette antenna? Si mette cavo nuovo e antenna nuova, PL nuovo, se si fa il lavoro si fa nuovo, non PL vecchi, spezzoni vecchi, si fa tutto nuovo, da A alla Z, capito? No, non è che devi stare a cambiare. Io il cavo che ho cambiato, il 213, era buonissimo, tant'è vero che lo uso a spezzoni, ne ho usato più di una parte a spezzoni, dalla direttiva, hai visto al commutatore elettronico che c'ho sopra, perché era nuovo, era un peccato buttarlo. Però quando ho messo la mantova nuova, ho messo anche il cavo nuovo, i PL nuovi, ho messo tutto nuovo, perché il lavoro lo fai bene, finito, non a metà, metti l'antenna nuova e lasci il cavo vecchio, ma anche i discorsi sono. Poi se c'è anche il cavo, che ha grande perdita, che oramai non serve più, un RG58, quanto lo vuoi tenere un RG58? Non uso qui. Santiago 7 e quando attaccava 8 e mezzo, adesso è mezzo al QRM, che sia l'antenna nuova, che sia l'antenna di Gesù Bambino, qua non arriva più, io non so cosa dire, non so. Lui mi sente e io non lo sento. Buonanotte ai suonatori, avanti Natalì. Capo, gliela volevo dare io, te lo dico. Certo, c'eravamo capo, c'eravamo tutto. L'ho detto, quando decidi avvisami, a me, a Valerio, a Massimiliano, eravamo disponibili. E invece ha deciso così, ha messo in mano tutto al nipote e alla GBC di Alghero. Non lo so io che cosa hanno fatto. Io avrei fatto un lavoro fatto regolarmente, perché io antenna col cavo vecchio non avrei piazzato. Avrei voluto antenna, cavo e PL, tutto nuovo. Ehi, l'ho vista, comunque mai vista prima, mai vista quella marca, deve essere roba o tedesca o come si dice, polacca, però 79 euro una ringo, 79 euro qua, poi bisogna vedere se c'è un altro sito. Troppo costa, una ringo troppo per quello che fa, va bene. Vabbè Marco, polemizziamo, lui è contento così e va bene così. Sta fatto che per me ha peggiorato, perché io sono l'unica persona che poteva dare un segnale migliore a Giuseppe da qua, perché con la posizione che ho Alghero mi arriva benissimo, quindi poteva solo migliorare, invece è andata a peggiorare. C'è qualcosa che non va sicuramente, da rivedere quell'antenna, come è montata, come non è montata, il cavo soprattutto è da buttare via, perché è da cambiare, quella DG58 che ce l'ha secoli, ok? Quindi una DG58 non dura più di 2-3 anni, è da cambiare, perché la carta è fine, a meno che non compri quello buono, ti dura un pochino di più, ma non è un cavo che dura in eterno, ok? Va sempre tenuto sotto controllo. Quel cavo era vecchio, perché io quando l'ho tagliato per fare PL già c'era Valerio, gliel'avevo già detto, guarda questo cavo è da sostituire, e lui ha detto quando metto l'antenna nuova lo cambio, invece è una ciambata. Quindi cambia il cavo e poi rifai le prove, sicuramente può essere anche quello. Avanti già. Devo contraddire, ce l'ho 15 anni delle 58 e va sempre bene, dipende sempre da... Io ho LC58U e quello con la carta argentata. Già, sempre una LC58. Tu vuoi darsi pure che sei un po' più riparato di lui, lui è molto vicino al mare e quel cavo era secco. Quando io l'ho preso in mano per fare PL, giù, figurati, lo spottone che entra dentro la finestra era secco il suo gatto. Alghero non è come Sassari, capito? Quindi è più esposto. Comunque, vabbè, io il 58 l'ho usato nel 1985 e poi avevo comprato da subito il, se vi ricordate che adesso non lo fanno più, l'RG8, poi l'RG8 213 che ho tenuto per anni, che ti ripeto, quello che ho tolto dalla mia antenna era buonissimo il cavo, e l'ho usato a spettoni, ho fatto gli spettoni da 5 metri, 6 metri per arrivare dalle direttive al commutatore elettronico che c'ho su, perché i cavi sono attaccati lì, a me mi scende un unico cavo. Il cavo della Mantova è l'H1000 nuovo, ok, che è l'unico cavo di discesa attaccato al baracchino, e il cavo di discesa dell'elettivo è lo stesso H1000, no, anch'io ho usato 200, il RG58 già, però dipende dalla situazione in cui ti trovi e dal posto in cui ti trovi. Alghero non è una città da poter usare col cavo, o il 213 o un H100, un H1000, insomma un cavo un po' più consistente per quanto riguarda la gomma eccetera, capito? Già. Il 200, il 358 è sempre un cavo che è andato sempre bene, vabbè, però certe circostanze come la sua è meglio mettere un cavo grosso, un cavo buono, ma a prescindere può rimettere anche il 213 già, ma lui ce l'ha più di 15 anni quel cavo, futti. E poi tu non ce l'hai 15 anni perché l'avevi cambiato, l'hai messo a nuovo quando si era riempita l'antenna d'acqua. Vabbè, ma quanto era passato? Un mese e mezzo, e quello ce l'ha aperto, quello lì sì, è successo un altro. E io l'ho rimesso a nuovo dopo un mese e mezzo, 2 mesi che l'avevo piazzato, infatti era un po' che cavolo, si è riempita l'acqua l'antenna, dopo cambiato. Esatto, e vabbè, comunque tu magari ce l'hai più riparato eccetera, a parte il fatto che ne hai anche forse meno di lui, non lo so, la sua antenna ha una posizione un po' particolare, entra dentro, capito, entra, vabbè, comunque il cavo è da cambiare, i cavi non si tengono tanti anni perché è il cuore dell'antenna, il cavo vuole nuovo. Io quando ho fatto i lavori qua e ti ho messo tutto nuovo, l'unico cavo che è rimasto vecchio sono gli spettoni che ho usato per fare la commutazione su e basta, che sono 213, però era buono, avevamo controllato con Maurizio della buona, quindi abbiamo fatto gli spettoni, gli altri sono tutti nuovi. Va bene, Marco, attuale micro. Eia, ti volevo chiedere già, quanti metri ne hai? 25. Eia, beh, ancora va bene. Poi se uno vuole un cavo sottile, un cerno che lo deve cambiare, c'è l'H155 che è sottile come 58 ma rende come 213, quello è molto bello, molto bello. Poi ci sono questi cavi Messi e Paoloni, tipo, tutti ne parlano bene, tipo cavi da 7 mm, hanno nomi strani, ma io preferisco Belden, quella roba lì, conosciuta a livello internazionale. Messi e Paoloni, Claudio, tu li conosci? Guarda, sul forum Roger K ne parlava molto bene, fa tipo cavi tipo Celflex, Airflex, tutti i nomi del genere. Hey, ciao, ci sentiamo, dai. Ciao Valerio, ehi Valerio già c'è sempre, io lo chiamo e lui risponde sempre. Ciao Valerione, un abbraccio, fatti sentire e fatti vedere, ciao. Ehi, 5 watt sono, il lineare l'ho già staccato, perché lo dice tienilo, oh, ne ho stracciato tutto. Bene, ciao Valerio, buonasera con tutto e a domani. Capito Claudio, li conosci i cavi Messi e Paoloni? Sì, sì, quelli sono cavi, è vero. Ehi, solo che io preferisco non cavi conosciuti solo a livello locale, preferisco roba Belden, roba che viene conosciuta in tutto il mondo. A meno che non siano fatti talmente bene, ma... prendi Natalino, saluta Valerio. Ehi, se mi sente, ciao Valerio se mi ascolti. Vabbè, ti ha salutato Natalino, Cappa del Rosmetro, va bene, Natalino ti accoppia. Ti accoppia se fai quell'operazione Drago, ti tiri su quel dittino. Ma così non ti sente perché sei in mezzo al corrente. Va bene, no Marco, hai ragione, infatti, cavi, se si comprano buoni, capito? Quindi va bene così. Ottimo per la truppa. Vai Natalia, riprendi e fai girare, dai. A me mi sta rompendo le scatole che non sento Valerio, non intenda Ghito, non intenda Ghisaccio. Sì. La patentella. L'acqua ci butto. Mi sa di sì. Mi faccio quella con la canara pesca, almeno non piglio QRM. Tu c'hai una buonissima antenna, rimontata a regola latte, l'unica cosa ti ho detto che se riesci a fare, lotta per quello, dobbiamo aumentare di un elemento, capito? Dobbiamo aumentare di un elemento, dobbiamo tirarla su di un elemento, Natalì. Se noi la tiriamo su di un elemento, tu stai pur certo che senti a tutti, perché c'è una posizione ottima, e l'antenna tua è buona. Il fatto che poi non ti sentano, lo sai perché, che stai andando con 2 watt, quindi... Non è che, però lì se noi riusciamo a mettere un altro elemento da 2 metri, io ce l'ho da innestare, senza fare grandi cose, tu stai pur certo che allora vai benissimo, alla grande. Tenendo conto però attento che Alghero per la tua posizione, per dove sei tu, non è molto favorevole, perché c'hai Monte Oro davanti. Ha difficoltà anche Gianfranco a volte a sentire, capito? Quindi non te ne fare una colpa, l'importante è che senti, se poi senti basso va bene, però l'importante è che senti, e noi risolviamo il problema tirando su un altro elemento, tranquillo, e tu vedrai che non disturbi manco la televisione di nessuno, perché sei troppo attaccato all'antenna TV, capito? Magari alla tua non le fa niente, però a quella degli altri sì. Ma poi lo strano è che l'antenna mia è attaccata a quello che disturbo, a me non mi disturbo e a chi tu sì. Solo che fare quello che dici tu non va bene, qua. A chi mi guarda l'antenna in terra? Là giù gli avvicina, gruvesa, va come ti viene un po' gruvento, mi arrampa in terra. Troppo ondeggia. L'unica cosa è, lo sai cosa, scende dal palo della Mantova 5 e c'è una campagna che è 12 metri, la prima sezione è da 6 metri, uno diventa all'altro e da poi la tiro su quello che devo tirare su, ti pongo un bullone abbassante e partire a campare, chiude così non puoi va. Sì, ma il nostro problema è stato lì, che l'ultimo tubo di quell'innesto è debole, se no non fletteva, capito? Però noi quel sistema lo risolviamo innestando da sotto, Natali, da sotto, si sgancia da dove è agganciata, si innesta l'altro tubo, si rimette dentro e si tira su. L'unico problema che tu devi risolvere, se te lo fa risolvere il tuo vicino, quello del computer, devi solo salire e mettere due tiranti, boh, basta, due tirantini devi mettere, e boh, l'antenna non le fa assolutamente niente, con due tiranti, lei non va da nessuna parte, perché il tubo che hai è da 50 quel tubo, Natalino, quello è l'elemento che io non ho messo nel sistema delle direttive, figurati tu perché erano troppo alte, capito? Quello è da 50, l'altro che va a innestare lì è da 55, ce l'ho io, capito, sulle direttive, quindi come aggancio tu sei perfetto, come installazione perfetta, l'unica cosa che manca quei 2 metri per sollevarci da quella casetta e mettere due tiranti, basta. Domanda. Dica. Allora, con questo elemento in più, di quanto si alzerebbe l'antenna di Natalino dal cornicione? No, dal cornicione è già fuori dal cornicione, non ce n'è problemi, è un metro da fuori dal cornicione, quindi andrebbe 2,5 metri ancora più alta, che è sufficiente per avere quello spazio necessario per i radiali, capito? Ho capito, sai perché la mia dal gabbiotto del terrazzo sporge di 2 metri, ma io tiranti non ne ho messo, è un'antenna talmente leggera che non, di tiranti non ha bisogno, certo se comincia a mettere, che ne so, 3-4 metri di palo, allora forse c'è bisogno, ma da me ho visto che ha girato vento forte, non ha fatto una piega, Claudio. Sì, ma quello è Natalino, su gli ultimi 2 metri sono liberi, non hanno niente, il tubo è molto fine, è fine che non ne avevamo altri, capito? È fine per quello. Noi eliminando quel tubo lì e innestando quello più grosso, ok, quello più grosso, anche un tubo d'acqua, che io ce l'ho 2 metri, il tubo acqua da 3/4, innestando quello, non ha bisogno manco di tiranti, però se lasciamo quello e innestiamo da sotto a salire, allora ci vogliono i tiranti, ci vogliono 2 tiranti, capito? Sì, ok, dai. Aggio compreso. Poi Natalino mi aveva detto, lui voleva la canna da pesca perché secondo lui la canna da pesca non farebbe TVI. E comunque Natalino, ricordati, se da te non fa TVI, vuol dire che il problema è di quell'altra persona. Cioè, o fa TVI a tutti, se lo fa solo lui, il problema è suo e se lo deve risolvere lui, mettendo, non lo so, controllando tutto, cambiando cavi, non lo so. A un certo punto non ti puoi accollare i problemi degli altri, no? Tu dici, vabbè, non è giusto disturbare, ma a un certo punto se il tuo pianto è in regola, che si controlli il suo. No, ma lo so cos'è, che con 2 miliardi il padrone di casa non vuole assolutamente a toccarla, perché quello non è il padrone di casa quello che disturbo, solo l'antenna è condominiale, ha bisogno di usare un pizzicatore a manetta e di discadenti burro e paghissimo si rientra a Drento. Allora quella cosa è successa ad Antonio Grodde, si lamentavano il TVI, lui ha controllato sull'antenna credo centralizzata e ha trovato i guadagni tutti a manetta nella centralina, tutto a manetta il guadagno, è chiaro che disturbava, però la colpa non era la sua. Vai Claudio. Però io non la posso manco controllare l'antenna, perché io gliel'ho detto, se mi fa salire controllo l'amplificatore sicuramente sarà tutto a manetta, non vuoi a toccarla, ruba drono di casa, assolutamente, che condominiale chissà, che ci rinuncia, già mi ha detto. Bello stronzo, se risponde così è uno stronzo, proprio. Già questo di suco mi ha visto l'antenna lunga, sinceramente, qual è quell'antenna? Ah, tuo fastidio me l'hai dato, ho chiesto anche al figlio che abitava lì, all'ultimo piano, no? Ho detto, ma voi di subito le prendete dal baracchino? Dice, no, nulla. E ho detto, beh, allora, di lusso, se non disturbo il padrone del terrazzo è fatta. Che altri c'è? Gianni, riprendi? E anche Gianni ci è passato. Miro, stavo dicendo a Claudio l'altra volta, Gianni ha subito una campagna diffamatoria, sia con volantini, sia con... lo illuminavano quando trovava con la macchina, più l'articolo sul giornale, ah? Già, avevo sbinciagliato l'avvocato io. E Gianni non c'è, evidentemente, che non sarà. Questo qui è un giornalista che lavora per le televisioni, mi fa a pezzi se lo distruggo, non hai compreso un tanto. Esiste anche la diffamazione a mezzo stampa, Cioè, se lui non vuole controllarsi il suo impianto, a un certo punto lui può dire quello che vuole, però poi esiste quel reato, diffamazione a mezzo stampa. E bisogna sempre battagliare, Natali. Il baracchino è una tribolazione, per colpa dei vicini. È sempre stato così, ci sono passati tutti. Gianni, sveglia! Gianni doppio rumo, sveglia! Ti sei tornato a addormentare. Cazzo, manco male che si goffa, se no te la cagito la gadria. Aspetta, sveglio. Gianni! Era sotto le coperte. Sai quanto ti invoglia a dormire con le copertine? Mamma mia. E va bene. E anch'io certe volte mi veniva voglia di buttarci tutto un periodo. Ogni volta che entro, però poi chissà perché ho pensato uno scherzo. Quello dei potenziometri, lo dirò sempre, casi, c'hai i potenziometri, non li puoi usare, non posso regolarmi il volume, così è, roba da matti. Ma lui intendeva i lineari. No, sai cos'è? Sicuramente lui mi ha sentito dire la parola potenziometro, tipo alzo il potenziometro dell'RFGain, del volume. Lui come ha sentito potenziometri uguale potenza, capito? È una mente molto primitiva. No, è molto asino. Ma meno male che si è calmato tutto. Ma deve essere una brutta cosa questa cosa del TV. Poi dice, adesso col digitale non disturba più, sentivo. Invece non è cambiato nulla. Può essere il cavo messo male, può essere l'antenna messa male, il miseratore. Può essere persino un decoder che prende a mondezza. Un decoder, sai, non lo so come li fanno, magari sono larga banda, pigliano tutto lo multinaggio. Te l'ho detto, dobbiamo vincere la Superenalotto, pigliarci una villetta in altura e modulare da lì. Allora, più altura della mia ne vuoi. Ah, io l'unico problema che ho sono i piccioni e i corpi. E gli stormi, maledetti come mi hanno fatto il terrazzo. Guarda, il giorno che salgo ti faccio la foto e te la mando. Allucinante, guarda, per carità. I vetri della Massarra non vogliamo visti, li ho tutti dovuti fare con prima la varecchina e poi con l'arco, perché guarda, erano tutti sforzi. Le antenne, mi sono messo la scarpa, però tutta lavata, allucinante. Maledetti, puzzolenti. E vabbè, io l'unico problema che ho è quello, poi per il resto non me ne ha fatti nulla. Ma perché? Tutta cagata era? Marco, era nera, ma sai i storni quanto sporcano? Mamma mia, sono uccelli piccoli, ma sono, guarda, una cosa allucinante, mi hanno fatto il terrazzo tutto nero, perché poi gli storni vanno negli olivetti a mangiare le olive, a mangiare queste cose, e sporcano proprio questa cacca nera, sembra catrame. Come i turchi sono gli storni? E meno male che le vacche non volano. Se no, guai. Ma secondo me era meglio una gaggata di vacca che la sporcizia di questi uccelli. Ah, non so come mi hanno fatto il terrazzo. Sembra asfaltato, perché poi è catramato con la pellicola, quella argentata, no? L'ho fatto nigra tanti anni fa, eterno, il mio terrazzo, la verità, eterno. E è diventato nero, sembra sfortato, sembra catrame. Sporca bestie. Ehi, ma... Ma vedi, erano di bene, mi organizzo. Tranquillo che mi organizzo, che me la abbiglio la carabina, eh. Ehi, avessi me la abbiglio. Te lo dico io, è carabina a prendere. Di libera vendita ed è potentissima. Mi sembra che Marco l'ha proprio vista, quella che c'avevo io. Peccato che l'ho venduta a mio fratello. Se no, ti l'hai rimpricciata. Ma usai, finta un rinculo la zia, e era di libera vendita, non ci voleva né portavarma né niente, era la più potente che c'era tra quelle di libera vendita. Era nera, tutto in polimeri, ma bettami. Andiamo a bella anche voi. Non c'è come fatto a Piombini quelli, ma io te lo dico, ma che sono schifosi, se l'altro giorno è tutto, ma ci vediamo dalla strada, ma è tocca, c'hai l'antenna completamente ricoperta di storni, di uccelli, completamente nera, mi emana la direttiva, ho 9 metri di braccia, c'è. È allucinante, completamente coperta, non si vedeva un radiale, mi ha detto. Infatti sono sceso giù, cioè come me l'ha detto, ho fatto girare l'antenna 2-3 volte a destra e a sinistra, sono, ho sentito partire dalla finestra, sono partiti tutti, saranno stati un migliaio. Ah, che ci sono applicati, era milioni di battrespo, lo si posano in altri radiali. Infatti io la faccio girare un po' a destra, un po' a sinistra, capito? L'ho fatto e si innanda, ma una cosa allucinante, non ce n'è più, ma sono, adesso sono andati via e torno in Natale. Io non ne ho più. Annubi sono, cazzo, quando passano. C'era una cosa allucinante, no, ma dico, adesso non ci sono più, forse perché c'è più freddo, magari sai, a settembre c'era più caldo e quindi sono degli uccelli che magari, non lo so, non me ne intendo, sta fatto che era pieno qua, negli alberi, pieno, quando partivano una nube, sembrava una nuvola nera. La prossima anno ce la già faccio, metto un albero di quelli finti sopra il tetto, capito? Lo innesto, lo metto dentro un tubo, metto il tubo attaccato al muro, poi compro un albero di quelli finti, ce lo metto dentro e ci avete cosa succede, con la riva attaccata, chissà di plastica. Un esempio di un'altra antenna che la pigliano siccome in orizzontale la pigliano per trespolo e si siedono sopra i radiali. Ah, vedi che adesso poco voi, adesso come me l'hanno fatto, ma tra l'altro è una cosa allucinante, sai, perché mia moglie adesso ci ha detto, mamma mia, come facciamo a pulirlo, ma già ne tannuta io, no? E che non è fuori, a me mi piace a pulire il vetro, mi pulito il vetro, ma non serve, basta. Però rimane così, me la fotte a sé. Ma spiega un minuto che c'è la pizza al forno, riprendi Marco. Eia. Eia, eia. Mi ho mangiato un po' prima, ma non assai. Molto bene, caro Natalino. E anch'io ero frustrato quando avevo la Ringo. Ringolem, per carità, non arrivavo nemmeno a Porto Torres con 4 watt. Alghero stesso era molto basso. Poi con questa invece a Porto Torres da Sandra arrivavo, per dire, no? Eppure una 5 ottavi è modesta mia, è come la BA27L. Te la ricordi la Intel che BA27L? È stessa cosa, solo che la bobina è trasparente, no? Vedi l'avvolgimento in rame. Poi ce n'era un'altra che aveva lo stesso nome, ancora più vecchia, la Mercury 27, stesso progetto, uguale. Oh, già sono uscito, sì. Già sei uscito. ma la ricordo di un catalogo vecchio Intech, mi pare, o Midland, la Mercury, poi è diventata Intech BA27L, e poi comunque la fa anche la Sirio, è questa uguale, identica, la tua e la mia, la fa la Sirio, uguale. Però la Sirio in più ti dà delle specie di bocchettoni da mettere tra uno stelo e l'altro, che però relativamente ti bloccano l'acqua. È sempre meglio nastrare col vulcanizzante, me ne sono occupato io facendolo bello stretto, l'ho fatto me, così si rapprende non... e sopra il nastro isolante, in modo da dargli il tempo bello di stringersi. Infatti problemi stazionari non ne dà. L'altra era un incubo, come pioveva stazionario a due, pasticcio, proprio un pasticcio di antenne era. Ehi, già lo so, questo ha problemi, non ne ha, non ne ho stazionari. Che ci con un pazzo, se no disturbo, certo, pure giornalista è, ma pure computer dice, una seccatura, sarebbe meglio modulare in FM, in FM tende a disturbare meno, soprattutto come audio, no? Come... perché la modulazione forte poi può disturbare di più, invece in FM è ottimale, però non ci vuole stare nessuno in FM, purtroppo, in tutta Europa parlano FM, francesi, tedeschi, non so cos'altro, tutti in FM, solo gli italiani sono rimasti in AM. Capito? Perché gli italiani piace splatterare, piace avere l'amplificato, eccetera. È questione di cultura. Aspetta Natali, dai, che è arrivata, devo chiudere. Dai, sono già le 8:30. Ci sentiamo domani. Ciao Natalino, Marco, Gianni, svegliate Gianni. Valerio, se sei in ascolto, Giuseppe, se mi stai ascoltando, buonasera. E chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Buon fine domenica a tutti, buon inizio settimana. A domani, ciao. Ciao Claudio, altrettanto, alle prossime. Avanti Marco. Eia, ciao Claudio. Buona serata, buon tutto. E ci sentiamo domani, credo. Tanto dove vuoi che vada io? Dove vuoi che vada? Grazie a Dio c'è il baracchino che mi distrae. E mia zia invece ce l'ha sempre col baracchino. Se sembra questo baracchino per il tempo, capito? Perché per lei l'hobby, il divertimento è una perdita di tempo. Lei sta sempre a lavorare. Quello è il suo hobby, dalla mattina alla sera. È una... te l'ho già detto, mi pare, è una nevrosi che ha, capito? E tu lascia la PT, dille, ha detto Claudio Spaviera, pigliala in goma e devo chiamare. Ciao! Ehi, ehi, insomma, chi non lavora è chi lavora troppo, dai. È proprio l'opposto mio, nonostante sia bassina, piccoletta, c'ha una voglia di fare incredibile. Vabbè, meglio per lei, perché dice che quando non lavora, se sta senza far nulla, pensa alla morte, capito? E non è proprio una... va bene. Ma te lì, quasi quasi vado anch'io, Tanto oggi è domenica, c'è Paperissima, ci sono quei video divertenti. E ci sentiamo domani. Comunque, ti dico Natalia, l'importante è che arrivi a Sassari, al limite, poi se non arrivi proprio lontano, pazienza. L'importante è arrivi a Lipunti, arrivi a Ottava, così. E sono arrivato anche a Bari, se per quello, con un VAT. Ah, di propagazione, eia. Eia, eia. Ok, dai, ci sentiamo domani o quando capita, ma te l'ho detto, tanto non devo fare nulla. Ok, buona cena, se devi cenare, buona serata, buon tutto. Saluti in famiglia, ok? Ciao Natali, ciao. Ciao, altrettanto. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao, ciao. Sì, c'era quel qua, mane di Lucca. Sì, no, mi sono mal di pancia, Natalia, ecco perché mi sono messo un attimo, adesso ho mangiato, non posso mangiare roba grassa, mi capito? Se no è un casino, dai, ci sentiamo dopo, alla prossima, ciao a tutti. Ciao Luca, anche a te, alle prossime, dai. Ciao Luca, dai, sentiamo. Se c'è mal di pancia, schirreggia. Sì, non è quello, ma quei calcoli sono maledetti, ciao. Ma i calcoli dove? Il rene o la cicifellea? Cicifellea. Una seccatura, quella è una seccatura. Anche perché non sfogano, rimangono lì. E io li ho avuti al rene, già la seccatura lo stesso. Vabbè Luda, ci sentiamo. Buona serata con tutto, dai. Ciao, ciao, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao.